È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Che parlava oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano quando ha inaugurato una polemica pazzesca. Dico subito, ti sembrerà strano che sono dalla parte di Beppe Grillo, no, perché il Presidente della Repubblica non può permettersi assolutamente di entrare nel merito di piccole discussioni, c'è stato o no il boom di Beppe Grillo, no, non si può entrare in queste polemiche. Ma che deve fare? Sentiamo Napolitano. Ma io insomma di boom ricordo quello degli anni 60 in Italia, altri boom non ne vedo. Grazie. Grazie Torino di essere con noi questa sera. Buonasera, prima capitale dello Stato Unitario, 1861. Stai zitto. 1865, ciao! Hai detto la tua stronzata serale, 800 24 0024. Questa è la Zanzara in diretta dal Centro Porsche di Torino, ultima serata di questo grande tour. Sì. Abbiamo con noi già un ospite in diretta, però sentiamo Grillo che nel passato, insomma, con Napolitano non è stato molto tenero. Ti ricordi, l'aveva chiamato Morfeo, mi sembra, no? Sì, però in questo caso, che dorme sempre. Sì, che si addormenta. In realtà lo diceva anche di Prodi, Grillo. Ti ricordi? Sono andato una volta a parlare con Prodi, dopo un po' si è addormentato. Grillo, continuate a offendermi così prenderò il 100% dei voti. Mamma mia. Tanto per arrivare al 100% dei voti e del gradimento di tutti i cittadini italiani, dovreste continuare a offendere populista, demagogo, arruffapopoli, flauto magico, pifferaio, maiale, mi avete detto di stronzo, continuate, io vi mando un po' di magari epiteti nuovi. Questo è il Grillo di ieri, oggi ha detto che fra un anno Napolitano potrà godersi il suo meritato riposo. Beh, insomma, è uno scontro, io sono dalla parte di Grillo perché bisogna rispettare, anche se uno non condivide, le idee delle persone che sono state votate. Ma chi ha detto Napolitano? Ha fatto anche lui una battuta, abbiamo un comico che fa politica e per una volta è Presidente della Repubblica che dice una cosa anche divertente e divertita. Ma non può mettersi in mezzo a questa discussione. Ma non si è messo in mezzo, ha risposto, è l'unica battuta che ha fatto in un settennato noiosissimo, scusa. Va bene, Grillo... I partiti, ripete anche le stesse cose ogni tanto. Chi, Grillo o Napolitano? Si stanno, no, anche Napolitano un po', però. Vai, il Presidente della Repubblica. Ci vuole la concordia nazionale. Si stanno liquefando in una diarrea politica. Grillo. Immagini. Quindi, dalla rigenerazione di cui parlava il nostro Presidente della Repubblica, siamo passati alla liquefazione. Si stanno liquefando la destra, il PDL, non c'è più nulla, c'è centro. Si stanno liquefando in questa diarrea politica. Intanto in Sicilia, e come mai in Sicilia, casino sul voto perché sembra che bisogna ricontare tutte le schede e dunque le percentuali. Come mai a Torino non succede, ad esempio? Cosa pazzesca, anche se adesso arriva un'agenzia per cui viene confermato il dato che vede Orlando con il 47-34, ma insomma non cambia. A Torino non è mai successo, no? Questo. Sentite le scuse del PDL, alcuni dicono non abbiamo perso, in realtà abbiamo vinto in alcune città. Gasparri, il tuo amico Gasparri. Ah, sentiamo. Gasparri, come no? Gasparri 18-30, te si piazza qua, eh? Il risultato noi lo giudichiamo negativo, quindi non stiamo a nasconderci dietro un dito. La RAI ha fatto delle rilevazioni limitate, bisognerebbe allargare il campo, non capisco perché siano state scelte solo alcune città, ci dicono per motivi di risparmio, bene, una spending review sui sondaggi, ci sono anche altre città dove noi vinciamo al primo turno, a Lecce con oltre il 60%, probabilmente a Catanzaro dove... Lecce e Catanzaro, perché sono città anche importanti, città anche importanti. Però insomma, anche in realtà oltre alla domanda principale di oggi, che è state con Grillo, state con Napolitano, c'è un'altra questione fondamentale. la questione che è stata posta ieri sera dalla signorina Began, la peregina, nostra ospite negli studi di Roma della Zanzara. Sabina Began, molto attaccata, molto unita nei sentimenti, sì, all'ex premier, sì, Berlusconi. E beh, insomma, la signorina ha detto che una volta, lo sentirete fra poco, si è trovata a baciare i suoi piedi, forse leccare anche. No, leccare l'ha smentito, baciare i suoi piedi, i suoi. Però del cavolo, io, come vuol dire, ci sono molti feticisti dei piedi, lei è tra questi, no? Sì, devo dire di sì, per cui non mi stupisce questa cosa, insomma, sì, anzi le piace anche un po'. No, ma che male c'è a baciare i piedi a qualcuno? È una scena agghiacciante, però, che Berlusconi che cammina lì. Comunque sentiamo, perché sta già facendo discutere in tutti, sul web, eccetera. Vabbè, lei ha mai toccato il signor Berlusconi, per esempio? Toccato? Sì, gli ho baciato anche i piedi. Così, per divertimento. Stavamo camminando su prato. E come ce l'ha il piede Berlusconi? Bello. Profumato. Signora, molto prega, profumato. No, ma che ha detto Berlusconi quando lei gli ha baciato i piedi? Che ha detto? Beh, è contento, no? Cioè, è rimasto contento. Se ti bacia i piedi, anch'io sarei contento. Vabbè, poi ha anche detto vi lasciamo sì, ai particolari. Vi lasciamo un po' in attesa, perché ci sono anche altre cose. Vorrei un figlio da Berlusconi. Forse scherzava un po', però sulla Minetti era seria. Lei ha sfruttato Berlusconi, io no. Certo. Abbiamo con noi il primo ospite della serata, fra poco ce ne saranno altri qui in diretta, Carlo Giovanardi, PDL, senatore, buonasera. Bentornato, fate un applauso qui a Torino. Bentornato, comunisti, bentornato. Ha visto? E qui a Torino anche i comunisti l'applaudono, Giovanardi. Baciamo le mani. Ma no, ma lei è collegato col viva voce, nulla, basta. Giovanardi. Ma lei lo sa, non deve prendere il viva voce, Giovanardi, deve prendere Baciamo la cannetta. Baciamo le mani senza viva voce. Si sente leggermente meglio, ma secondo me lei ha ancora il viva voce. Allora, è al capolinea, Giovanardi. Volevo solo differenziarmi dai piedi. Senta, scusi, tutti si aspettano, io magari le chiedo, sì, il tracollo del PDL, un'analisi dei voti, tutte queste cose, sì, sì, vabbè, sono importanti. Lo faremo. Però la cosa fondamentale che le voglio chiedere, ma lei, sì, che è sposato da quanti anni, scusi, Giovanardi? Sì. Tanti. Quanti? Sì, quanti? Si ricorderà, però, tanti. Almeno faccio due conti, 75, 25, 39. 39 anni. Sempre con la stessa. Una volta si è sposato. Ma lì sai, nel centrodestra le volte fanno uno, due, tre matrimoni. Scusi un attimo, ma lei ha mai baciato i piedi a sua moglie? Alla famiglia ci tengono. No, lo so che è una domanda un po'... Dopo 39 anni di matrimonio, secondo lei c'è qualche parte che è rimasta esente? Oh, non è un bacchettone! Grande Giovanardi. Aspetti, qui c'è stato un applauso del pubblico. Giovanardi, Juventino? Due punti. Juventino, non lo so, torinista, non lo so, del Milan, no. Dell'Inter. Ma lei Juventino, Giovanardi? Sì, quest'anno sì. Come quest'anno sì, scusi? Sono un opportunista generico, io sto con il bel gioco, quest'anno sono diventato Juventino. Sì, ma lei che fede ha, non è mica del Modena? Opportunista generico, ho detto. Cioè, di solito sta con Berlusconi, perché c'è, cioè, col, sì, Milan, no, perché c'è Berlusconi. Parlo di bel gioco. Di sport. Torniamo alle parti del corpo di sua moglie. Lei sicuramente ha baciato i piedi di sua moglie, mi sembra di capire di sì. Io devo rientrare a casa, quindi il discorso su mia moglie lo apriamo e lo chiudiamo qui, perché devo rientrare a casa. Quindi nel caso stesse sentendo la trasmissione, credo, sì, che di essere già andato oltre. Parliamo di politica. Si farà trovare coi piedi nudi così. Parliamo di politica. Giovanardi, baciami i piedi. Vabbè. No, parliamo di politica. Vabbè, adesso, aspetta, nuova rubrica della Zanzara, le grandi perversioni dei nostri politici. Esatto, no, nuova, sì, rubrica. Potrebbe essere una nuova le grandi ecco perversioni. La sua più grande perversione qual è? No, ma scusi, un'ultima cosa, poi tutto... Qual è la più grande? La più grande perversione. Però glielo posso dire solo per gli specialisti, perché è proprio una cosa patologica che solo pochi perversi possono capire. Sì, mi dica. Adesso voi segnatelo, poi qualche esempio, sì. Polazzi a Torino capirebbe benissimo. La perversione sarebbe quello di venire in possesso di un foglio del 100 lire della Democratica Ruota 1, emesso nel 1948. Ma io non stavo parlando di perversioni mentali. Ma che è da internare? Io stavo parlando di perversioni sessuali. Da voi è la perversione, scusate. Sì, no, questa è sicuramente una perversione. Questa confermiamo essere una perversione. Non discutiamo. Però insomma, le sue perversioni, proprio una cosa per cui lei dice: beh, io questa cosa qui proprio sono perverso, vero? Sono ossessionato da questa è cosa. Bello, qual è l'immagine di sé? Che ne so, il baciare sul collo, toccare un ginocchio, mordicchiare l'orecchio, non so, tante cose. Ho detto tutto, ho già detto abbastanza, che volete. Parliamo di politica, perché la vostra analisi che ho sentito all'inizio mi sembra del tutto sbagliata. Ecco, meno male. Traffico, torniamo tra un attimo. Dire ce n'è anche per Mario Monti, il quale ha detto che i suicidi, invece di lasciare perdere sui suicidi, perché non si discute intorno alle ragioni di un suicidio, a meno che uno non conosca le ragioni come dire, no, intime di una persona. Poi si può parlare naturalmente della crisi dell'Italia. Dice che i suicidi sono colpa della crisi provocata dai passati governi. Una cosa ridicola, una cosa ridicola. Beh, l'hanno accusato però il governo di essere responsabile. Vabbè, ma non bisogna rispondere per forza a chi ti accusa di aver causato i suicidi, no? No, senatore Giovanardi, che dice? A proposito dei suicidi, io mi sono permesso di criticare Monti oggi. Ma pensavo ci stesse entusiasticamente riflettendo detto su questa cosa. Che bisogna accelerare l'entrata della Turchia nella Unione Europea, perché noi siamo vecchi e stanchi. Ma che c'entra la Turchia adesso, scusi? Perché siamo nel campo dei suicidi. Credo che forse l'Europa in questa settimana avrebbe qualcosa da riflettere all'interno per capire che cos'è, dove vuole andare, prima di pensare di brigare in Europa. La Turchia, 80 milioni di persone, senza sapere bene noi come risolveremo i nostri problemi, che sono già molti, dell'Europa di oggi. Senta, lo sa che comunque in Turchia i matrimoni gay sono vietatissimi, dunque lei può stare tranquillo. Se entra la Turchia in Europa... No, ma perché bisogna ogni volta che Giovanardi bisogna parlare sempre dei gay? Hai ragione, hai ragione. Non è che Giovanardi è fissa. Io, guarda, voglio anche bene a Giovanardi, siccome non è... Hai ragione. Sempre gay, ogni volta che dice Giovanardi, sempre con i gay. Ogni volta mi viene di chiederle dei gay. Come dica una cosa bella sui gay, su Giovanardi, così sfatiamo anche questo mito. No, ma parliamo di politica. Scusi un attimo, ma Prandelli... Il vostro argomento preferito, ma io preferisco la politica, guardate no, che... No, ma lo so, ma anche questa è politica. Scusi un attimo, senatore, però una cosa gliela devo chiedere, lo so, mi darai addosso tu, Parenzo, però io gliela devo chiedere per forza. Quando il commissario tecnico della Nazionale dice che i giocatori di calcio dovrebbero fare coming out, dovrebbero dire, insomma, sono omosessuale, ha ragione oppure no? Dice una grande minchiata, secondo me. Detto con linguaggio moderato e cattolico. Fare, o può fare... quello che gli pare. Lucio Dalla ha fatto la sua vita, erano affari suoi, ragazzi, quello che faceva o non faceva, e il dramma è quando gli altri vogliono imporre a delle persone che vogliono vivere come vogliono, come gli pare, ma nessuno vuole imporre niente, non è che ma nessuno obbliga a dire quali sono i loro orientamenti, che sono questioni private. Se uno lo vuol dire, lo dice, se uno non vuol dire, non lo dice. Però scusi, Prandelli non è che vuole obbligare un calciatore a dirlo. Ha detto i calciatori, quando sono omosessuali, dovrebbero fare coming out, perché una cosa dovrebbero normale, fare, perché... appunto, non si capisce perché dovrebbero farlo, neanche se scusi, uno per cui è Prandelli è un omosessuale, è un cretino. Se uno fa la collezione di farfalle, se uno va a letto con la moglie del suo migliore amico, deve fare coming, deve dirlo. Beh, no, quello, deve andare nello spogliatoio e dire: guardate, io ho un rapporto con magari col collega di calcio, no? Il suo compagno, guarda che io ho un rapporto con tua moglie, deve fare outing. Cioè, non ho capito questa mania, per cui ognuno deve andare a dire e a spettellare 420 gli affari suoi. Scusi, ma da questo punto di vista allora è un cretino Prandelli a dire questa cosa qua, un imbecille, come si può definire? Non condivido quello che ha detto, no. Vabbè, ha detto una minchia. Come non ho condivido l'annunziata quando davanti al funerale di Dalla si poteva andare con gli uomini, poteva andare con le donne, poteva avere i rapporti che interessavano a lui e che ha sempre mantenuto nell'ambito della sua vita privata, da morto hanno voluto interpretarlo. Mi è sembrata una grande scorrettezza e una grande forzatura. Lo sa che hanno scoperto che Batman era omosessuale? Beh, per forza. Ma perché non parliamo di politica? Il supereroe. Guardi che l'argomento omosessuale è un argomento fortemente politico. Per esempio, Hollande, che ormai sembra per alcuni diventato l'unico argomento, ma c'è anche un mondo un pochino più vasto, insomma, di quell'argomento lì. Credo che insomma ci sono. Sì, assolutamente. Problemi, per esempio, Hollande. Il neo presidente francese Hollande si è detto favorevolissimo. Dunque, per lei è una tragedia. Ha visto che ha vinto, no? No, non è una tragedia, adesso ci saranno le amministrative, vedremo se i 2 milioni di voti di La Pen con l'astensione che l'hanno fatto vincere, no, o i voti di Bayrou, sì, che è assolutamente contrario a quello che non ha detto, è la Pen, saranno necessarie e sufficienti perché ha una maggioranza in Parlamento. Se ce l'avrà, come ha fatto Zapatero, è giusto che la democrazia porti avanti le sue idee. Vabbè, ma insomma, non le dice qualcosa che il presidente francese è a favore dei matrimoni gay? Giovanardi, è la modernità. Non le dice qualcosa? Guardi, come lo considera questo? Il fatto che sotto gli occhi di tutti, e quello che ho sempre detto io, siamo in una realtà dove non esiste più nessuna discriminazione. Lui, giustamente, arriva a fare il capo dello Stato, in Italia, ai vertici dello Stato, in Francia, persone che possono essere sposate, possono essere non sposate, ma le possono fa paura essere questa accompagnate, Francia gay, possono avere rapporti di fattività che ci sono stati al vertice delle istituzioni italiane, persone che erano gay, non lo raccontavano in giro, però ci sono stati. Se vogliamo parlare di un ministro dell'ultimo governo, scusi, Prodi, Giovanardi, chi erano? Cagno, chi erano questi? Se ne è vantato. Ma chi erano? Ma non vedo dove c'è il problema. Ma chi erano questi qua che non hanno mai dichiarato? Scusi. Beh, se lei conosce la storia d'Italia, dei precedenti, sì, lo so, voglio che lo dica lei, però, di Senato e Camera, farà poca fatica a scoprire chi erano, ma sono diventati presidente del Senato, presidente del Consiglio, non perché erano gay, perché erano bravi. Sì, ma questo e non hanno mai ostentato i loro orientamenti. Lei parla. Allora, abbiamo con noi un sindaco, uno dei pochi sopravvissuti alle catombe della Lega Nord, Eraldo Botta, Varallo Sesia, buonasera. Buonasera a voi. Come buonasera. Sta? Bene, bene. Ma lei è un finto sindaco in realtà. È vero, ci avete azzeccato. Ma anche se è della Lega c'ha la fascia tricolore però. Beh, sì, sono venuto per voi, portate la fascia, metti la fascia, metti la fascia e sono qua. Non lo dica così, che l'abbiamo suggerito noi. Sì, la verità. Lei poteva pure dire la fascia tricolore, mi fa schifo essendo io della Lega. Beh, no. Mi piace, baci il tricolore, baci il tricolore. Bacio il tricolore. Ecco, baciato. È la mia unica bandiera, la mia unica. Non esiste bandiera della Padania, non esiste la Padania. La Padania non esiste la Padania. Diciamo, sfatiamo questo mito. No. Non esiste la Padania, è una minchiata, diciamolo. No. La Padania c'è. Diciamolo. Non applaudite, comunisti. La vogliamo fare cacciare. La vogliamo far cacciare dalla Lega. La vogliamo fare cacciare subito. Dica, la Padania è una minchiata sesquipedale. È una boiata pazzesca. No, la Padania c'è e lo dico. Perché? Ditemelo voi perché. Perché cosa c'è? C'è il grano da Padano. Perché lei è una sorta di cane al guinzaglio. Di Bonanno, e chiediamo scusa per la parola guinzaglio. No, ci mancherebbe. Scusi un attimo, però lei ha detto che qui abbiamo due sindaci. Sì, Bonanno mantiene la stessa scrivania, decide tutto lui. Ma lei che cosa ci sta a fare come sindaco? È il sindaco ombra. Ma capito, ma è una cosa che non è consentita. Cioè non è... Chi piglia le decisioni? Miseria. Lei o Bonanno? Ma pensi lei. Allora, pensate, a Varallo ci sono due sindaci che costano. Varallo, che costano uno nulla. E l'altro la metà. Ma quanti abitanti fa sta Varallo? Circa 10.000 abitanti. Lei capisce che su una radio nazionale ci occupiamo dell'unico comune dove la Lega praticamente ha vinto. Oltre a Tosi, naturalmente. Beh, però abbiamo fatto il 62%. Scusi, però io ho un quiz per lei. Vediamo se lei è un vero bonanniano. Vediamo se lei è un vero seguace di buon anno, mentre stiamo per concludere. Dunque, proprio una sola domanda, poi ne abbiamo una serie. Sì. Allora, stia attento, i gay starebbero meglio al Gay Pride, allo zoo oppure a Varallo Sesia? Starebbero bene dappertutto, perché possono stare dappertutto. Io però... sono assolutamente... una di queste tre, al Gay Pride, allo zoo oppure a Varallo? Beh, allora, se voi mi dite cosa ha detto Buonanno allo zoo, però se io vi dico invece. Lei, non è un vero Buonanno. Ma fai il democristiano, pubblicità, lei. Pubblicità. Siamo qui di nuovo in diretta, la Zanzara da Torino. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ultima tappa del live show 800240024. Subito un ascoltatore fra poco. Prima i titoli del TG3 diretto dalla signora Bianca Berlinguer. Io ho una particolare simpatia per questo telegiornale perché da sempre regala sempre dei titoli. Poi mi sta simpatica lei, non c'è niente di male. Non è un reato. Comunque ogni tanto fai il punto della giornata nel TG3, mi piace. Giovanardi, lei lo segue il TG3, senatore Giovanardi? Succede come sempre no? L'uno, il due, il tre secondo gli orari. Ma il tre lo sente o no? Segue o no alle 19? Ma mi capita di seguire il tre, se alle 19 c'ho tempo, sono davanti alla TV. Ma è un TG fazioso secondo lei? Scusi? Parla troppo di gay? No, dico, è un telegiornale fazioso il TG3 a suo avviso? Giornale è come se andasse a comprare l'Unità o il Fatto Quotidiano, so che cosa compro. Quando sento il TG3 so che è un telegionale schierato. E come legge l'Unità e il Fatto Quotidiano? Non credo che ci sia nessuno in Italia che possa dire che il TG3 non sia un telegiornale schierato. no, nella impostazione. Lei può dire quello che vuole. Scusi, però io ho una domanda ancora da fare, Giovanati. Ma secondo lei Berlusconi cosa è andato a fare in Russia da Putin? Sì. Questa è una domanda da fare a Berlusconi, interessante. Sì, ho capito. Come mai sovente si reca in quella terra? Come mai? Avrà affetti da coltivare, amicizie da rinverdire. Affetti da coltivare. Però io, sì, diciamola tutta, perché non è che l'ha detto, io è due giovani che rimando questa cosa, perché vorrei anche da lei, Giovanati, una parola definitiva. Sì, ma voi che siete combattenti a reduci di Berlusconi, Berlusconi non è più Presidente del Consiglio, quindi che vada in Russia adesso a trovare l'amico Putin non mi sembra che abbia una grande rilevanza. No. Oggi no, oggi indubbiamente no. Qualche tempo fa però no. Comunque è sempre curioso, no, che ci sono queste visite, sì, queste visite continue. Tra l'altro qui abbiamo una sorta di Medvedev di Varallo Sesia, perché sì, l'uomo di paglia, giusto, insomma, giusto, no, l'uomo di paglia, sì, cioè sì, buon anno che Putin, diciamo, e il fantoccio, noi stiamo poi esagerando. Guardate, posso dirvi una cosa, sempre per essere un po' controcorrente, no? Sì, bravissimo. A me è impressione in Italia che quelli che per decenni si genuflettevano davanti all'Unione Sovietica quando c'era Brezhnev, cioè quando c'era un sistema totalitario in maniera assoluta, oggi vadono a fare le pulci a una Russia che ha tantissimi difetti, ma dove insomma i passi avanti dal punto di vista della partecipazione democratica dei partiti. Ma secondo lei Berlusconi va lì per combattere il comunismo? Non esiste più. No, io sto parlando di un'altra cosa. Sentiamo Feltri un attimo, sentiamo la massima. Prima avete detto che Medvedev è una persona, una specie di. Ma no, non ha capito lei, Giovanni, stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando di un'altra cosa che riguarda il sindaco di Varallo Sesia, neo sindaco con oltre il 60%, una cosa quasi sovietica, che in realtà è una sorta di uomo di paglia, perché il vero sindaco è un altro che ha detto che rimane comunque a fare il sindaco, per cui era tutto un ragionamento così siamo un po' bizzarro. Siamo in due. E due sindaci, ci sono due sindaci in una città. Ci sono più sindaci però che abitanti. L'autorità massima su Berlusconi, una delle autorità massime è sicuramente Vittorio Feltri, che certo non può essere tacciato di anti-berlusconismo. Esatto. Ha detto una cosa giusta finalmente Parenzo questa sera, e dunque sentiamo cosa ha detto su Berlusconi in Russia da Putin. Sì, l'analisi di Feltri. Anche il PDL prende una botta micidiale, lo sanno persino loro, tant'è che Berlusconi è già scappato in Russia. Come Russia? Sei rifugiato sì, già là, da oggi basta, lui non ne vuole sapere. Ma come va sempre da Putin? Perché? C'è un motivo. Saranno soci in affari, anche mignotteschi, ma non solo. Socio di affari mignotteschi, non è che l'ho detto io, Giovanardi, cioè, l'ha detto Feltri. Ma pensate, vi do una novità, sto leggendo la condivide? No? Questo interessa anche voi. Alla Camera ha approvato la norma che nei comuni la prossima volta che si voterà con più di 15.000 abitanti si possono dare due preferenze, ma è obbligatorio che una preferenza vada un uomo e la seconda vada una donna. Ma questo se è una viene annullato. Io non condivido assolutamente, no? Ma nemmeno io sono d'accordo con lei. Perché questa cosa non passi. Però vedete, un'interpretazione tutta italiana della democrazia, perché d'ora in poi non ci sarà più il candidato o la candidata. Sì. Saranno obbligati a mettersi in due, perché soltanto una coppia uomo-donna potrà con la doppia preferenza assommare i voti dei due, e quindi non avremo più il candidato o la candidata da votare con la preferenza. Voteremo la coppia. Questi dicono tutti alla Camera che è una grande conquista. No, c'è Botta che ha capito, però scusi, Botta, lei ha capito questa cosa? No, non ho capito, ma comunque noi siamo avanti perché siamo già in due, quindi lì sono già in due. Però, ma siete uomo e donna o uomo e uomo? No, due uomini. La Camera, se la doppia preferenza viene data a uomo uomo o donna donna, viene annullata. Devono essere di genere diverso. Giuro che non ho capito, ma non mi interessa. Lui dice, scusi un attimo, se andiamo avanti così, però Giovanardi, siccome lei pensa che ci sia una sorta di lobby gay, lei pensa che ci sia una lobby gay, no? Questo sicuro. Ma io molto se fossi attiva. Nella lobby gay mi scatenerei contro una norma di questo genere. Per introdurre anche uno spazio per gli omosessuali, perché non una candidatura omosessuale obbligatoria, giusto? Ma guarda che da questo punto di vista io sono sempre stato dell'idea che ghettizzare, lottizzare, dire uno spazio per gli uomini, uno spazio per le donne, poi inevitabilmente dice ma scusi, perché io non posso votare due uomini? Ma perché mi è proibito votare due uomini? Ma perché mi è proibito votare due donne? Vabbè, perché devo votare obbligatoriamente un uomo e una donna? Un'ultima domanda, che è questa? Facci spiegare dai deputati perché noi andando sempre a cercare cose che non esistono negli Stati Uniti, che non esistono in Inghilterra. Ma abbiamo capito, purtroppo ha ragione, mi duole molto, ma purtroppo ha ragione, volta ha perfettamente ragione. Ragione chiudiamo questo purtroppo. Argomento, però c'è un argomento che mi preme molto. Oggi uno stato degli Stati Uniti, scusi gioco di parole, il North Carolina, ha approvato una cosa, secondo me, su cui Giovanardi può essere d'accordo, cioè il matrimonio gay, vietarlo in Costituzione. Dove l'hanno vietato? Cioè vietare il matrimonio gay, in Costituzione, lei sarebbe d'accordo? Beh, seguono l'Italia, perché l'Italia ha già una Costituzione laica repubblicana che in effetti non è che proibisca, ma limita la possibilità di sposarsi soltanto uomini e donne. La parola vietare, ecco, lei la inserirebbe la parola vietare, perché ora norma, non c'è la c'è bisogno, vieta. Basta scrivere quello che abbiamo scritto nella nostra Costituzione per escludere. Ma nella Costituzione una norma esplicita, così tutte le discussioni finiscono e lei non viene più chiamato sui gay. Ma come è chiara, ho già pensato la Corte Costituzionale a spiegarlo più volte. Ma non è così, io non sto dicendo così, una norma esplicita, lei la introdurrebbe, sono vietati i matrimoni tra omosessuali persone dello stesso sesso. Allora, così non ne parliamo più. Non c'è bisogno. Ma non è vero, scusi Giovanni, perché non si fa promotore di una cosa del genere? Sarebbe coerente con quello che lei è. Perché non ce n'è bisogno. E qui invece chi è promotore e crede e ritiene che ci possono essere i matrimoni fra uomo e uomo, fra donna e donna, e fa una battaglia parlamentare per modificare la Costituzione in questo senso. Va bene, comunque i titoli del TG3 abbiamo mandato Diamo un'interpretazione invece, parliamo di titoli del TG3. Aspetti. Titoli del TG3. Subisca i titoli dell'Unità e del Fatto Quotidiano. Pensi ai gay, adesso li mandiamo i TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti, l'agenda di governo non cambia. Stoccata chi ha governato prima di lui. Chi non ha affrontato la crisi rifletta sui suicidi. Manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL il 2 giugno per chiedere al governo più lavoro e meno tasse. Intanto fallite 3.000 aziende nei primi 3 mesi dell'anno. Napolitano, dal voto a motivi di riflessione sulla governabilità non vedo un boom dei grillini. L'ex comico replica, fra un anno si potrà riposare. Da Palermo una sorpresa del voto amministrativo, interpretata male la legge, conti da rifare. Orlando, il risultato non cambia e poco fa la regione dice tutto valido. Berlusconi torna da Mosca e convoca un vertice del PDL. Bufera su Alfano che ammette la sconfitta. Verona non basta, la Lega alle prese con il crollo al nord. Il PD parla di vittoria e punta sui ballottaggi. Apertura ai moderati per il 2013. Di Pietro, basta aspettare i centristi. Casini, moderati sotto le macerie. Per la procura, l'agguato all'amministratore delegato Ansaldo ha analogie con gli attentati delle Brigate Rosse. C'è l'aggravante della finalità di terrorismo. Pronto l'identikit di un killer. Intanto più ci ripenso e più leggo delle cose su quello che ha detto Monti oggi sui suicidi, più penso che veramente... ogni tanto è freddo come un robot. Le persone fredde a me piacciono, per carità, le persone ciniche, fredde, determinate, eccetera, però questa cosa sui suicidi è incredibile. Dice, ci pensino gli altri, la colpa non è mia ma dei governi che mi hanno preceduto. Verrebbe da dire scusatio non petita, accusatio. Allora, manifesta, mi dica però... una stronzata che ha fatto Buonanno, ne ha fatte tante. Qui c'è la lista una lista lunghissima, dai cartelloni con i vigili urbani all'assessorato alla dieta, una sola che lei vuole eliminare, una ce ne sarà, no? Una. Ho fatto tutto bene, una sorta di lei ha il culto della personalità di Buonanno, ma ce l'ha accanto al comodino una foto del suo prosindaco? Sì, allora. Come no? Parliamo mi dica di che c'è al comodino, stavo scherzando. Parliamo di stronzate. Allora, stronzate. Devo dire, non me ne ricordo, diciamo, Non se ne ricorda, manco una, questo è vero, vero culto della personalità. Però siamo mi ricordo al culto tante vero. Cose simpatiche, due se le avete dette voi che sono state quella bellissime. Mi smentisca questa che è agghiacciante, se è vera, cioè che all'ingresso della città ci sono dei cartelli con scritto vietato l'accesso a donne velate, mendicanti e venditori ambulanti. Mi dica che non è vero. È vero. No, amico Avaraglia. Mio! Scusi. Ma che è Disneyland quel posto lì? È così. Ci portano i bambini, è così. Ma c'è adesso. Ancora quel cartello? C'è ancora. Cioè, i mendicanti non ci sono a Varallo? Non ci sono. Non ci sono mendicanti? Non ci va. Se chiedere l'elemosina, che succede? Non va bene, cioè deve come essere... Non va bene. Scusi, allora, siccome c'è la pubblicità, noi siamo oberati dalla pubblicità. Per fortuna, naturalmente, però... La Padania, mi dica che non esiste, che è una buffonata. Ripeto, sì, la Padania è una buffonata. Padania, lei è giovane, un bel ragazzo, pure un bel ragazzo. Questo è discutibile. È un bel ragazzo. Sì, no, sì, sì, però lo sei. Sei un bell'uomo, un bel ragazzetto. Su. Allora siamo un po'. Un bel ragazzetto. Dica, dica ufficialmente la Padania. Non esiste, siamo costretti a dire sta stronzata. La Padania esiste perché? Esiste perché c'è il Grana Padano. Pubblicità. Ce la facciamo. Bene, siamo qui di nuovo in diretta da Torino, 800240024, è stato accolto da un grande applauso Luciano Moggi, buonasera. Abemus Lucianum. E io saluto il sindaco, mitico sindaco, nuovo sindaco di Varallo Sesi, uno dei pochi sopravvissuti alla Lega, che non ci ha voluto dire che la Padania è una stronzata pazzesca. Ma non ci siete riusciti, la prossima volta ce la facciamo. Ce l'ha detto prima fuori da qua che è una stronzata. Ce l'ha detto fuori da qua, sì. Non l'ha voluto dire ufficialmente. Non dici la verità, Senatore, grazie, grazie a te. Buona giornata. Senatore Giovanardi? Salutiamo oggi intanto. Lo conosci Luciano Moggi? Buonasera senatore, buonasera. Li conoscete, sì? Tante battaglie avete fatto insieme. Quali battaglie? Te lo ricordi? Scusi un attimo, senatore Giovanardi, ti voglio chiedere una cosa, ma perché non questo simbolo del PDL? Ormai è tutto finito, su, facciamo un'altra cosa, un altro partito. Quando vedo una lettura di questa elezione totalmente sbagliata. Ma perché? Invece avete vinto? Perché, se permettete. Basta andare a vedere i dati, ma se attesta sul 25% dei voti. Ora l'Italia non sarà un paese, perché chi ha ancora un patrimonio del 25% dei voti sarebbe in caduta libera, sarebbe distrutto. Ma dove vediamo. L'ha preso sto 25%, scusi, Da dove l'ha tirato fuori? Spieghiamo Verona, no? Secondo voi Verona, via Verona. Ma avete preso una botta pazzesca, ha vinto Tosi al 57%, il 38% dei voti della lista che è stata determinata per far vincere Tosi è tutta fatta da pidiellini. Ma se non c'è dati, se ne sono scappati, sono esodati, sono usciti. Ma perché non bisogna confondere le amministrative con le politiche? Il vero problema è che il terzo polo in queste elezioni ha dimostrato. Ma adesso non ci può spiegare, Giovanardi, scusi, non è che ci può spiegare. Ma è evidente che da Verona a Gorizia, a Lecce, a Catanzaro, la partita fra un anno, no, fra nove mesi, si giocherà fra il PD e i suoi alleati e il PDL, che io auspico riprende i contatti con la Lega e su quello si giocherà la vera partita elettorale. Lei ha fatto ha citato una sola città che è quella sbagliata, perché lì Tosi ha fatto piazza pulita di metà del PDL, di metà del PDL. Non è assolutamente così, se permette. Conosco bene Verona, conosco bene tutti gli assessori del PDL di Tosi che sono stati tutti rielletti nella lista per Tosi. Ma con Tosi hanno mandato il PDL. Sono tutti iscritti al PDL. Ma li vogliono cacciare dal PDL. Siete mal informati. Non sono stati cacciati. Ma non ho capito, ma se uno si fa eleggere sotto le insegne di un altro partito, è evidente che poi lo cacciano. È evidente che ci sono nel 90% dei casi, per esempio in tutti i comuni sotto i 15.000 abitanti, ci sono liste civiche del PDL, non si usa. Meglio tornare a parlare di gay. Giovanardi, la ringrazio molto, buona serata, stia bene. Prego. Stia bene, Attenzione. Grazie, introduciamo Moggi. Eccomi, lo ringrazio molto, ne ha dette di tutti i colori. Adesso arriviamo a lei, signor Moggi. State piano però. Piano, molto piano. Le voglio Vogliamo subito mettere a suo agio. Ha chiuso qualcuno nello spogliatoio per ora? Adesso chiudo a te appena è finita. Ma lui non sa niente di quello che è successo. Deve sapere che Parenzo è totalmente privo di qualsiasi colore. No, fa finta di non sapere. Però le faccio sentire quello che ha detto di lei Marco Travaglio di recente. Una poesia. Però è un fuori onda. Non so se l'ha ascoltato. Sì, l'ho ascoltato. A Radio DJ. C'è pure una querela. Ah, l'ha querelato? Perché non si è accorto che stava parlando fuori onda, ha detto di tutto. Ma fuori onda, poverello, scusa. L'ha querelato? Pensa un po'. Sì o no? Certo. Per querelato subito. Quanti soldi gli chiede a Travaglio? Vedi, Travaglio c'ha un problema. Adesso è juventino, Juventino? Della Juve. Lui sa neppure cos'è. Allora, lui è contro delle persone conosciute per farsi un nome sul giornale, prima pagina, eccetera. Allora, Travaglio, pensa che è arrivato a fare. Che ha fatto? quando ha fatto un libro, sì, ha fatto un libro che ha presentato a Bologna. Sì, no? Lei, sì, Lucky Mod, no, come no, no, no, no, Lucky Mod, ha presentato a Lucky Bologna, Mod. E tra le altre cose, esatto, per, no, sul fallimento del Bologna, perché gira gira, il fallimento del Bologna ha provocato io, oppure ha provocato la Juventus. Vabbè, insomma, che ha fatto questo travaglio? Ha fatto, ha messo un'intercettazione dove un giornalista, non faccio, sì, il nome, perché sono tutti come voi, di vabbè, cose allora, in... che diciamo, stronzate, stronzate. No, allora, beh, però facciamo sentire, allora, prima Travaglio che ha detto, allora, su Moggi, allora, poi me lo spiega, facciamo, no, sentire Travaglio su Moggi, Travaglio su Moggi. Buono umano, ma depresso, passato anche la fase della depressione, perché io in realtà quando è arrivato quell'anno di Moggi ho smesso di tifare per la Juve. Ciao. Non ho cambiato, ciao, squadra, perché non si può cambiare squadra. No, quando è arrivato Moggi ho smesso, poi quando l'abbiamo cacciato, ho ricominciato a tifare per loro, però adesso hanno ripreso il potere, perché Moggi è sempre a Torino, Giraudo accompagna Andrea Agnelli a fare tutti i giri, mi hanno raccontato. Ti hanno raccontato. Quindi, sì, insomma, mi sono strarotto e quindi non ti fa più. Ha detto che non è più della Juventus perché sono tornati Moggi, sì, e Giraudo. Ascolta, ladro di Moggi, adesso detto, quel ladro. Ladro, sì, per quello, vabbè, quel ladro. Vabbè, sì, sì, per il ladro, eh? Sì, perché il ladro, quanti, io non sono mai stato. Quanti soldi hai chiesto? Non, no, adesso fatti spiegare, perché spiegare, parli sempre tu. Allora, ha messo un'intercettazione in riferimento a Bologna, sì, dove praticamente questo dopo la partita di Bologna, Fiorentina-Bologna, arbitrato da De Santis, ha messo un'intercettazione in cui dice, un giornalista al sottoscritto telefonicamente, non ti dico neppure il nome, sì, perché vabbè, dovrei, allora, mi dice, guarda che De Santis ha compiuto un delitto perfetto, sì, ha ammonito due giocatori della Bologna diffidati. Sì, non era vero. No, no, era vero. E allora? E lui ha fatto punto a questa situazione. Si è dimenticato di mandare avanti l'intercettazione, dove io dicevo, chi sono quelli diffidati del Bologna? Tanto per dire come è fatto Travaglio. Scusi, ma no, lei dice, no, non è della Juventus. Lui si professa della Juventus, eccetera. Ma lei aveva mai avuto rapporti lui con... Lui è di se stesso. Lei ha mai avuto rapporti con Travaglio prima? Sì, ho avuto, cioè, un altro... Non è che ha chiesto qualche biglietto, ho avuto un altro processo con Travaglio. Ah, non è che le chiedeva biglietti, no? Non è che le chiedeva biglietti. No, no, a me no, no. Anche se ce l'avessi avuti non le davo. Perché? Senta invece, no, Fiorello sui 30 scudetti, sulla terza stella, eh? Fiorello oggi, credo. Ma che mi dà del lei ora? No. Ah, lei dice. A lei tu. È uguale, ci possiamo dare tu. Fiorello. Posso dire una cosa, Agnelli? Agnelli, sei simpatico, io un caro ragazzo, io l'ho pure conosciuto. Basta con sto 30° scudetto. Sì. No, tu Juventino, non di niente. Basta, siete stati bravi, avete vinto scudetto, smettetela, pure Moratti, no, simpaticamente. Non sono 28, con questa storia sono 30. Ma sì, ma sono 28. Io vorrei dedicare fate parlare il grillino di Gianni Agnelli, che nessuno lo ricorda. Lui oggi sarebbe felice della vittoria del 30° scudetto della Juve. Ma siccome sono successe delle cose, caro, meglio sì. Se io fossi presidente della Juve direi sì, non ne parliamo mai più, perché sennò non finisce mai. E questo era Fiorello. Lui è simpatico, è un interista da curva. Fiorello dimentica una cosa, è una cosa abbastanza divulgata, adesso la conoscono, diciamo, tutti quanti. Si è presentato un assistente al colonnello Auricchio, sì, che era quello che conduceva le indagini, sì, e che ha detto? Per dire al colonnello Auricchio, guardi, mi deve sentire perché l'Inter mi sta forzando perché io faccia un qualcosa per non far squalificare un giocatore dell'Inter. Vabbè, lei dice, il colonnello Auricchio le ha risposto, no, questo sta al processo. No, ma lo so, adesso non volevo entrare. Ho capito, ma... No, per rispondere a Fiorello non è che deve citare l'assistente del colonnello Auricchio. No, a Fiorello sa come gli si risponde. Come si risponde? Che Palazzi, dopo che noi abbiamo trovato le intercettazioni, io ho difesa, trovato, sì, le intercettazioni... ha praticamente emesso una sentenza sull'Inter che dubbio, è passibile di articolo 6, illecito sportivo. La Juventus, la Juventus non è articolo 6, ma la Juventus è al massimo Moggi, articolo 1. Sta terza stella, dove bisogna metterla? Sta terza stella, dove bisogna metterla la Juventus? Qui all'Inter, a Moratti la metterei, la cioè, terza stella, come gliela faccio? In testa. Dove la mettiamo? È quello che adesso, tanto perché sappiano tutti quanti, sì, che ha fatto? Nel processo per pedinamenti e intercettazioni illegali, sì, che bel mondo, sapete cosa ha fatto? Che ha fatto? Ha fatto prima Facchetti era... Tu non fare lo spirito. Che bel mondo, intercettazioni. Prima Facchetti era un santo. Sì, sì. A quel processo lì, sì, sai cosa hanno detto? Hanno tolto il santo, hanno detto se Facchetti l'ha fatto iniziativa sua, complimenti, perché l'Inter pur di non pagare sconfessa pure Facchetti che è morto. Vabbè, ma se la terza stella dove gliela qua, in testa. Ma come gliela darete in testa? In una certa maniera. Come? Col martello proprio? Io farei come quelli che fanno la prova del chiodo, la stessa cosa. Chioderebbe la terza stella sulla fronte di Moratti, altro che la maglietta della Juventus. Con questo sistema... Ma si sente un po' rovinato da Moratti. Moratti l'ha un po' rovinato. Io sto veramente bene. Come adesso. Sta bene? Ma vai tranquillo. Lo sai di chi è che non sta bene? E queste sono le persone per le quali combatto. Quelli che hanno distrutto, che stavano facendo tutto, arbitri che praticamente non hanno niente a che vedere, ci sono alcuni, sì, che vanno a fare camerieri in albergo e c'hanno figli e c'hanno da pagare il mutuo di casa. Io per questi combatto, perché non hanno fatto niente e deve uscire fuori, quella è la verità. Senta, ma Andrea Agnelli dove la metterà sta stella? Perché al di là del io la deve mettere sulla maglia. 30 erano e 30 sono. Ma lei lo sente ogni tanto? Sì. Certo che lo sento. Anche spesso. Recentemente, dopo lo scudetto, l'ha sentito? Certo, ma che perché non avrei... che ci diciamo? Ma perché ti devo dire quello che ci diciamo? Fa un po' da consulente. No, è tornato. Moggi è tornato. Assolutamente no, e vi spiego il perché. Perché è radiato, vabbè, d'accordo. Ma no, lascia perdere. Lo potrebbe fare? Ma non potrei fare proprio, io non voglio fare proprio ma niente. Faccio il giornalista come fate voi. Lo so. L'opinionista, dico stupidaggini come dite voi. Ma come campa? Questo... È curioso, io sono curioso. Io ho tanti problemi economici. Ma non è vero, ci prende. Si sta coglionando. Allora, il discorso vero, perché voi non girate l'argomento, fate come in pratica si dovrebbe dire e fare. L'argomento di fondo è che l'Inter... Sì, ma lo sappiamo. Ma lo sapete, allora che me l'avete chiamato a fare? Vorrebbe mettere la stella sulla fronte dei Moratti, no, più di questo. No. Allora, l'Inter ha rovinato tante persone con Telecom, poi hanno messo Rossi. E Guido Rossi, che era consigliere dell'Inter, a dare gli scudetti all'Inter, poi viene fuori la motivazione che il campionato è regolare, che il sorteggio è regolare, che le ammonizioni erano regolari. Allora di che cosa parliamo? Parliamo di una cosa ben precisa, così vi rendete conto, voi che ci ascoltate, lasciate perdere loro due. Ha preso anche la trasmissione. Un'altra cosa importante. Questo è importante. L'aiuto su questo. Jelkan, come è cambiato l'atteggiamento della Juventus? Cosa è successo per far cambiare l'atteggiamento? L'atteggiamento della Juventus. Se ne parliamo dopo. La farebbe la politica oggi? Scenderebbe in politica? No. Come non? Suo, forza Moggi. Se faccio un partito io votano 11 milioni di tifosi juventini. Come lo chiamerebbe un partito? Io consiglio a Berlusconi Moggi. Anche. Lo sai come lo chiamerei? Come lo chiamerebbe? Giuseppe Cruciani. Ma lo farebbe un partito o no? No. Non ci ho mai pensato. In politica qualcuno le ha chiesto di scendere? Chi? Berlusconi? Sì. Non mi ricordo. Ma mi volete far finire un discorso serio? Ma la destra o la sinistra? La destra o la sinistra? La dritta. Veramente le hanno chiesto di candidarsi? Posso parlare seriamente? Guarda che poi dopo ti ritrovo da un'altra parte. Nello sgabuzzino famoso. Nello spogliatoio. Sono la fine del papà, resta qui. Vabbè. Allora, per voi che ascoltate, devo dirvi una cosa. Il comizio di Luciano Moggi. Il pippone di Moggi, è la verità. Ecco l'Inter, la mia difesa. L'Inter, prima del 2006, ma chi se ne frega, una radio economica finiva questa. A 20 punti, a 20 distacco, punti vabbè, di distacco d'accordo. Dalla Juventus, sì. Finito il Calciopoli, la luna di Calciopoli, dove ha avuto tutti i vantaggi, compresi i giocatori della Juve. Adesso è ritornato nell'alveo suo normale, a 23 punti dalla Juventus, sesto in classifica. A Torino questi sono tutti juventini. Questo sta a dimostrare quello che è fischia, c'è un fischio solo. Scusi, Montezemolo ha detto, che bisogna mettere la terza stella, ma Montezemolo non è stato uno di quelli che, insomma, a un certo punto l'ha emarginata quando è arrivato il momento? Emarginata Montezemolo no, perché non aveva il potere di farlo. Come no, era presidente della Fiat all'epoca, che dice? Mica l'ultimo che passava. Lì il potere l'avevano altre persone, non certamente Montezemolo avrà fatto altre cose, ma non lo so io. Ma è vero che l'avvocato Agnelli diceva, parlando di lei, lo stalliere del re deve sempre frequentare il ladro di cavalli? Ma tu adesso sa pure fare, bravo, complimenti. Sì, effettivamente questa è la dichiarazione che ha fatto, perché ha detto, con tanti figli della mignotta che stanno in circolazione, è meglio prendere uno che li conosce bene. E quindi lei si considerava un po' lo stalliere del re? Sì, io cercavo di stare attento a quello che succedeva alla Juventus, perché vedi adesso il problema c'è un giornalista di voi, Becantini, che ha scritto fino al 2006 erano una guerra di bande, no? Sì. Zamparini ha detto che era meglio prima del 2006, adesso io vorrei domandare a voi, ma qual è la banda che c'è adesso? Ma lei si sente un po' il Bettino Craxi del calcio? Perseguitato dai magistrati come Berlusconi, un po' il Berlusconi del calcio, si sente o no? Io sono qui in Italia, non vado all'estero. Non scappa. E chi è che scappa? Farò come Bettino. Io questo lo dici tu. Io faccio come farebbe Moggi Luciano, siccome non ho paura, non ho fatto niente. Rimango qui. Sto qui e difendo quelli che poverini sono stati distrutti da questa situazione. Ma non ha paura di finire in galera? No. Tu c'hai finire anche lei. Perché devo finire in galera? Non sogna io. Mai. E perché devo finire in galera? Il processo arriva alla fine. Che processo? Ha paura dei magistrati. 5 anni ha preso. Tu evidentemente non hai letto le motivazioni del processo. Ma io sono dalla parte sua, forse non hai capito. Non ha preso 5 anni quel processo. Non ha preso 5 anni lei prima. Sì, ma va bene. Ma chi se ne frega? Ci ha preso 5 anni, chi se ne frega? Hanno fa, vedi, anche lì ho trovato qualcosa che non ha funzionato, perché le motivazioni sono una soluzione. Sì. E poi dopo ce la condanna. Ma non ha paura? Dice, quando hanno pronunciato la sentenza, Luciano Moggi condannato a 5 anni, non si è un po', come dire, come direbbe lei, non si è un po' in mano, insomma, no, non si è un po'. Prima ho voluto leggere le motivazioni, motivazioni, posso aver capito qualcosa. Diciamo niente, ho capito, perché la soluzione sta nelle motivazioni. Quando uno dice, quando le motivazioni dicono, lasciami parlare per cortesia. Cosa? Quando le motivazioni dicono che il campionato era regolare, non è stato falsato, e allora che devono dire? Ma scusi un attimo, ma lei si sente un po' perseguitato, un po' come Berlusconi da questo punto? Perché no? Un po' come Berlusconi? Io non mi sento perseguitato, perché io meno chi mi mena a me, quindi non. Come mena lei? No, meno. Come Delio Rossi? Delio Rossi, ricordate. Ha sbagliato? Non l'ha fatto apposta, perché la prima volta è scivolato, siccome non gli era venuto bene, è scivolato anche la seconda. Come è scivolato? Scusi, per chi ha votato lei alle ultime elezioni, signor Moggi? Per chi ha votato lei alle ultime elezioni? Nel 2008, le ultime elezioni. Ce lo dica. Mi sa che non ho neppure votato. No, mi ricordo. Lei però ha votato spesso Berlusconi. Sì, io ho votato. Ma che te ne frega? Casa di vetro deve essere. È una casa di vetro questa qua. Ma voi se mi aveste detto di fare questa tiritela qua, io mica venivo. Appunto, mica gliel'abbiamo detto, amico mio. Ma ha mai votato comunista lei quando era ferroviere, ad esempio? Mai, e non sono stato neppure capostazione. No, ma era ferroviere sì, però. Mai a sinistra, mai votato a sinistra. Comunisti, per carità, no? No, per carità, io sono politico, quindi comunisti per carità. No, se te lo dico, io sono politico. Tu sei invece astro. Vabbè, ma ha sentito Berlusconi tutte queste intercettazioni? Su Repubblica ha letto qualcosa, no, di queste intercettazioni di Berlusconi? Di queste qua, di Rubi. Sì, Bunga bunga. È stata attaccata a queste piccolezze. Ma lei reggerebbe il ritmo di Berlusconi? Il ritmo sessuale? Lei fa ancora l'amore, signor Moggi? Pensa te che fili zoccola. Ma come si permette? Abbiamo il traffico, no, che traffico, la pubblicità, torniamo tra un attimo. Siamo qui sempre da Torino, buonasera a tutti, da Zanzara, 800 24 0024, grande ospite qui a Torino, Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ex tante cose. Oggi, come si definisce lei oggi, Moggi? Un pensionato del calcio? Intellettuale prestato alla politica. No, no, un intellettuale prestato ai giornalisti che non sanno parlare di calcio. No, però scusi, no, veramente un pensionato del calcio, si potrebbe dire? Un pensionato? No. No, non si sente in pensione? No, in pensione ci andate voi. Vabbè, ma non è che le voglio curare la pensione. Con la prostata tutto a posto, signor Moggi, vero? Ma che c'entra la prostata? No, però non abbiamo capito. Lei ancora ma quanti anni ha? Ma perché insisti su questa perché cosa? Perché le interviste sono belle quando entrano e fanno venire fuori il personaggio nella sua casa. Sai che a te ti ritenevo un po' più serio. Esatto, visto a Tele Lombardia. No, ma sono la 7. Quanti anni ha lei, signor Moggi? 28, compiuti. No, veramente, compiuti. 59 anni. Compiuti. Com'è la sessualità? A rispondere a 400 telefonate al giorno e tenere il telefono in mano. Io gli dissi, dico, al gabinetto non c'è. Allora gli dissi, guai, facciamo finire la trasmissione, poi viene con me e gli dimostro come facevo. Ha battuto la caserma terribile, il Sermoggi. Vabbè, te lo faccio vedere. No. A me? No, ma che ti faccio vedere. A Moggi. Scusi un attimo, però Prandelli fa bene quando dice che... gli omosessuali calciatori dovrebbero dichiararsi, dovrebbero dirlo apertamente, oppure è un tabù? Lei ha mai incontrato un giocatore omosessuale? Guarda, io una volta ho detto una cosa, se avessi avuto e mi fossi accorto di un giocatore omosessuale nella squadra mia, l'avrei venduto, mandato perché? Via. Perché? Me ne è capitato di tutti i colori, me ne hanno dette di tutti i colori. Adesso invece, siccome non ci sono, se ci stanno gli omosessuali, evidentemente se giocano bene li facciano giocare. Ma lei la conferma, lo manderebbe via se ancora fosse un dirigente? Ma tanto non sono, è inutile ti confermo, no, capito, quello che non sono. Ma perché dovrebbe? Sarebbe giusto mandarli via, cioè non dovrebbero giocare al calcio gli omosessuali. Ma ci sono tante cose. Me ne dica una, se ci sono tante cose, una. Cioè gli omosessuali non dovrebbero giocare a pallone. Ma chi l'ha detto? Lo dici tu. No, lei ha detto che l'avrebbe mandato. Io adesso invece sostengo, dopo tutto le critiche che mi sono state fatte, che dovrebbero dirlo, dopo tutte le critiche che mi furono fatte, sì, certo, quando io dissi che non mi è mai capitato nessun giocatore omosessuale, adesso vi dico, tutti omosessuali per me va bene lo stesso. Vabbè, ma questo è perché vabbè, che volete da ma me? Fanno bene a dichiararlo o no? Prandelli ha fatto bene a fare questa cosa o no? Secondo me no. No, ha sbagliato. Secondo me no, si poteva tenere tranquillamente questa cosa e non dirla, poi l'allenatore della nazionale va su argomenti che praticamente non hanno niente di attinente con il calcio, hanno solo attinenza con i gossip. Dove sta zitto? Dove sta, e guadagnava una bella occasione se stava zitto. Un bel silenzio non fu mai scritto, insomma. Sì. Bravo. Beh, ecco, ogni tanto dici qualche cosa di buono. Scusi Moggi, però in realtà è strano che nel calcio, rispetto ad altri mondi, ma nessuno insomma, dica. Ora si entra pure in nefrosi. Ma l'ha detto Prandelli. Vai da Prandelli e domandali perché l'ha detto, ma non ho ha capito. Ha detto una stronzata, diciamo la verità. Su questo sono d'accordo. Possiamo dire stronzata. Stronzata. Una stronzata pazzesca. Vabbè, i 30 scudetti, la terza stella. Abbiamo detto quanto è stato contento domenica sera, che ha fatto? Ha goduto come un pazzo. Ha brindato. Certamente sono stato contento. Ha chiamato subito Agnelli? Sono stato contento. Oh, ma mi fai spiegare? No, sì. Tu mi fai una domanda e non riesco a spiegare. Sono stato contento, sai perché? Sì. Perché la Juventus è uscita dalle macerie facendo un progetto che praticamente sarà anche costato dei soldi, però facendo un progetto che ha portato avanti. Sì. Io ero tra quelli che diceva che la Juventus all'inizio non poteva vincere il campionato perché la Juventus era inferiore tecnicamente al Milan e al Milan. No, non mi sono sbagliato. Non mi sono sbagliato. Assolutamente no, perché all'inizio tecnicamente la Juventus è inferiore al Milan, su questo non c'è dubbio. La Juventus ha dimostrato quello che devono dimostrare gli altri, professionalità, voglia di vincere, che praticamente era un orgoglio represso questo qui. Hanno avuto voglia di vincere, hanno corso dal primo minuto della prima partita fino all'ultimo minuto. Ma lei piacerebbe essere invitato domenica alla festa dello scudetto? Indifferente, io ho piacere soltanto che la Juventus vinca, poi dopo il però resto... Però le piacerebbe che Andrea Agnelli la invitasse? Vabbè, diciamo mi piacerebbe, va bene. Piacerebbe. Quindi faccio un appello qui da Torino. No, dal io proprio non faccio nessun appello, ma che appello? Famiglia Agnelli. Tanto lo stadio lo conosco perché l'abbiamo praticamente anche gli spogliatoi conoscono lo stadio. gli spogliatoi no, gli spogliatoi non li conosco, però lui vedi, no, ma rispondo a te perché tanto te e a lui è la stessa cosa. Beh, adesso che siamo zigotti, ci possiamo anche baciare se vuole lui. Ogni tanto provate un po'. Ogni tanto dormiamo insieme, ogni tanto dormiamo anche insieme. Guardi qua, guardi. A questo punto avete capito tutto. Anche lei, baciamo oggi sulla bocca. Sì. Mi devo fare il bagno. Ma come se ne fa il bagno? Ma come? Ma che vuol dire? Ma è solo un bacio. Ma scusi, ma se lei vede due uomini che si baciano per strada, che fa? Le fa schifo? Beh, insomma, a me sì. È una cosa incredibile. Dice, perché non lo fanno a casa loro? Perché non lo fanno a casa loro? Sì. Cioè, se lei immagina un rapporto tra due uomini, sì, le viene da volta stomaco? Sì, un po'. Sì, penso proprio di sì. No, mi viene cioè, volta stomaco, me ne posso anche fotte, però la sostanza qual è? Sì, è che piace. signor Maoggi. Oddio mio, vabbè, Abete, sono Abete, presidente della Federcalcio. È uno sfigato, tre possibilità, uno sfigato, un incapace o un raccomandato? Tra queste tre, lei storico nemico di Luciano Moggi? Beh, vedendo, lei no, perché è storico nemico? Assolutamente. Vabbè, no, lui è il presidente della federazione, secondo me non è capace di condurre un calcio come quello di oggi. Vabbè, tra sfigato... È successo. È Scommessopoli, è successo Udine, sì, e voi avete visto la rissa, sì, è successo che i tifosi... È colpa di Abete che si sono ammazzati le botte in campo. È colpa di Abete che non sa tenere in mano il bandolo della matassa. Non lo tiene in mano, perché insomma, se ci fosse qualcuno con più carattere... Sì. Si chiamano attributi. Il problema non ha le praticamente palle, non ha le, no, non ha, è volgare questo. Dai. Io volgare. Con quello che ha detto lei sugli omosessuali. Scusi, signor Maoggi. No, io non ho detto proprio niente, avete detto tutto voi. Sì. Dai. Scusi un attimo, ma a lei piace Grillo? A chi le piace un po' lì? Grillo le piace? Sì. Uno che manda a fanculo tutti, bellissimo, no? Uno che c'ha le palle. Lo voterebbe Grillo lei? Ho detto che sono apolitico. Vabbè, ma che vuol dire? Uno apolitico non vuol dire niente. Uno semmai è apartitico, non apolitico. È la stessa cosa, dici la stessa cosa mia. No, apartitico vuol dire che è contro i partiti, apolitico è contro ma la politica. Ma non sono contro i partiti, io sono proprio contro la politica. Vabbè, ma dopo tutto quello che sta succedendo adesso, si cioè può parlare di politica? Monti, parla lei, Monti, per Monti, dai, Monti, Monti ti piace, Monti? La fine del mondo. Quante tasse paga lei, signor Moggi, ad esempio? Lasciamo perdere, vai, entriamo in un altro argomento. No, però Monti le piace, non le piace Monti, mi sa. Troppe tasse. Monti è un inviato praticamente dei partiti, ma poi perché come mi volete far come parlare dei partiti? Ma sì, ma è uno che praticamente fa una legge, poi va in Parlamento e gliela boccia. Funziona boccia, così, signor Moggi. E allora che potere ha Monti? E che ne so? Ma come allora se non lo sa perché, me lo, perché me lo domandi a me? È presidente del Consiglio, c'è un sacco di potere. Sì, Vabbè, un'ultima cosa. E poi me ne vado, sì, scusate. Deve parlare. Ma dove va poi? Dove va poi? Questo affari miei. Vai. Va a fare il bunga bunga, Sì. Le piace? Le sarebbe piaciuto partecipare a una delle feste di Berlusconi? Sì, quelle feste eleganti. Le famose feste eleganti. Bello però. Diciamoci una cosa tra noi. Sì. A voi? A me sì. Beh, io allora, lo ammetto. Organizza. No, a lei sarebbe piaciuto o no? Sarebbe piaciuto o no partecipare? No, ma no, come no? No, io sono timido, no, non faccio no, queste cose. No. Troppa gente intorno. No, perché le piace l'uno a uno a lei? Diventerei rosso, riuscirei proprio... Cioè lei piace l'uno a uno? Le ammucchiate? A me piace anche vincere, di avere da 1-1 il pareggio è sempre una cosa. Le ammucchiate non le piacciono, è troppa gente. Ma pensa te, ma dove sono venuto? Vabbè, insomma, qualcuno l'ha fregata nel 2006. Gli Elkan l'hanno fregato o no? Non lo so. Beh, no, quando dice non lo so, significa che si sente. Non lo so, è rimasto tradito dagli Elkan un po'. No, io, diciamo non che, vi siete difesi, diciamo, non vi siete difesi. Qualcuno ha deciso di non difendersi. Dicendo, no? Vi hanno scaricato. Stavo dicendo. Ma mi fa parlare o sì, dici sì, tutto te? No, te no, ti fa la domanda e ti dà la risposta. Ma in calza, signor Cruciale, allora, in calza. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo. Mi sono sentito scaricato da... No, questo lo dici tu. Non ci hanno difeso. Vi hanno difeso abbastanza. No. E adesso perché no, che abbastanza, per niente. Per niente. E perché hanno cambiato atteggiamento? Beh, non hanno difeso per niente perché quando sono andati al processo l'avvocato Zaccone sì, ha detto che certo, in 5 giorni aveva letto tutto, a noi ci è voluto 5 anni per leggere. Se ci fosse stato ancora il nonno magari... Non succedeva niente. Nel nonno, nel dottor Agnelli, ma dirò anche di più, vedi, l'avvocato Picchiusano. Purtroppo sono morti tutti e tre. E sono rimasti questi qui. Se non morivano la Juventus vinceva ancora 5-6 campionati, questa è la verità. Perché e le vinceva sul campo. Nel CAN non capiscono di calcio moltissimo. Ma questo lo dite voi. No, non ma non è che diciamo, ma non li conosco io sotto quel profilo. Io conosco Andrea Agnelli che ha vissuto con noi 12 anni. E lui sa. E vedete che appena è entrato lui qualcosa di buono è stato se fatto. Se ci fosse stato Andrea Agnelli nel 2006 non sarebbe successo nulla, lei dice. Ma Andrea era un ragazzino. Come mentalità, diciamo, come mentalità. Se ci fosse stato con le qualità che aveva, sì, certo, dopo essere stato 12 anni con me, con Giraudo e con Bettega, probabilmente faceva quello che ha fatto adesso. Ha imparato tutto da noi, ha imparato tutto da noi. Beh, non ha imparato, però ha imparato il mestiere l'esperienza, da l'esperienza praticamente porta avanti nel discorso. E lui, voi avete visto, ha cominciato a fare le guerre con chi le doveva fare, perché ha capito la situazione, certo, ha capito la situazione, siccome lui l'ha seguita a fondo, certo, la situazione, sa quello che facevamo noi, perché le vittorie della Juventus erano frutto del lavoro. Benissimo, della Juventus. Allora io dico una cosa, Moggi, però si può dire che Andrea Agnelli ha imparato moltissimo da Moggi, da Giraudo, da, sì, è così. Da risultati, ha preso esperienza, sì, da noi. Siamo noi i suoi maestri, diciamo così. No, io non mi sento maestro di nessuno. Beh, però lui era sempre con noi, evidente. Le persone intelligenti seguono, assorbono, e imparano. Assorbono. Evidentemente Andrea è intelligente. Andrea ha assorbito. Okay, mi dicono... quello che non assorbite voi. Mi dicono Travaglio vero juventino, eh? Qualcuno mi ha scritto, non le dico chi. Travaglio vero juventino. Juventino. Ma come no? Perché no? Uno non può essere juventino, è anche... Uno può essere juventino e odiare Moggi, cioè è possibile? Ma no, ma lui non, cioè si può essere juventino e non sopportare Moggi? Allora, ma questo è interessante come cosa. Lui non odia né Moggi né juventino. Lui ama mettere in prima pagina la firma sua con le persone conosciute. Ma scusi, è un po' come essere socialisti e odiare Craxi, no? È un po' come essere socialisti, però odiare Craxi è possibile. Io ti dico quello che penso, ma vuoi che ti dica per forza quello che vuoi tu? No, io ma si può essere juventini e odiare Moggi e anti Moggi. Non odiare, no. Ma odiare. Si può fare tutto, si può fare tutto. Luciano Moggi, grazie. Grazie di essere stato con noi, grazie. Pubblicità. Eccoci qui, sempre in diretta da Torino, 800 24 00 24, tre quarti d'ora ancora, abbiamo appena iniziato, buonasera, grazie. Dov'è finito? Mi è sparito Parenzo. Mario, Reggio Emilia, buonasera. Buonasera, Mario. Buonasera. Vada, buonasera, vada. Mi sente? Sì. Eccomi. Allora, io volevo solo fare questo intervento qua. Volevo far presente al dottor Monti, che oggi ha sostenuto, anzi finalmente si è accorto che ci sono degli imprenditori che si stanno suicidando, sì, ecco, e ha rivolto il suo pensiero a questi imprenditori. Ecco, lui ha sostenuto che non è colpa sua ma dei governi precedenti, sì. Ok, fin qui siamo d'accordo, c'è stata delle responsabilità, diciamo, da parte di chi ci ha governato fino adesso, da parte anche e soprattutto delle banche, che non hanno poca responsabilità in questa situazione, scusate l'emozione, ecco. Però mi sa che il signor Monti... Stringa, vada al sodo. Pronto? Sì, allora? E allora, volevo dire questo, che il signor Monti dimentica che praticamente lui è esattamente espressione di questi che hanno governato fino adesso e delle banche anche. Vabbè, lei sta dicendo anche Monti non si può tirare fuori, non si può delle banche. Ho capito, non si può tirare fuori perché fino adesso è vero che non ha governato nel senso tecnico del termine, però insomma ha fatto parte di quell'establishment che ha governato l'Europa, il mondo e non so che altro. Antonio da Prato, Antonio vada. Sì, buonasera. Prato, la città del grande Nesi. Che avete riproposto insistentemente. Fare sempre queste citazioni culturali di Nesi. Ma chiediamo anche, no, parliamo sennò sempre di omosessualità, diamo anche una spolverata, no, di Nesi, Edoardo Nesi, grande premio strega. Vabbè. Ma perché è un'annotazione, come dire. Antonio, lei conosce il signor Nesi? Conosco Edoardo Nesi, lo conosco. Lo conosce, meno male. È un pubblico intellettuale quello della Zanzara. Vada, Antonio. Non mi prenda per il culo, Parenzo. Senta, allora. Sì. Questa era buona. Ma non ho ancora detto nulla, aspetti. Questa era buona, però, Antonio, glielo devo riconoscere. Molto buona. Potremmo ingaggiarla. Vada. Allora, stavo dicendo, avete riproposto più volte Feltri, no? Con il discorso di Berlusconi, Camignotti, la Russia, eccetera. No? E lui stesso ha definito le intercettazioni divertenti. Ora, considerando che queste intercettazioni, io non voglio fare il moralista, ma risalgono al periodo in cui stavamo facendo proprio la fine della Grecia e anche peggio, sì, io allora... che divertenti le trovo agghiaccianti, cioè nel senso... Guardi, proprio... io le trovo divertentissime naturalmente, perché io mi diverto con queste cose qui, però se poi uno va a ragionare sono conversazioni che non si farebbero mai in pubblico, si fanno in privato tra persone... in questo caso conosciute, più o meno conosciute, però nel privato si dice qualsiasi cosa. Cioè, mi scusi Cruciani, non si capisce se lei le stigmatizza o se le enfatizza, abbia pazienza. Ma non le enfatizzo, ma sono lì, che cosa devo fare? Ci gioco sopra, è evidente, mi pento ogni tanto, di notte mi alzo e mi dico cosa ho fatto, ho mandato 3-4 intercettazioni di Berlusconi, cioè, forse ho fatto male, cosa vuole che le dica? Cioè, è così, le posso assicurare che è così. Parliamo? Ogni tanto mi pento, dico no, forse ho mandato troppe intercettazioni, troppo faccio poche. Parte di tutti quelli che mandano le intercettazioni, che le sfruttano, facciamole sì, sentire è vero, una. Biecamente ogni tanto le sfrutto. Facciamole sentire una, le sfrutto subito, perché sentire quella voce con Love of My Life mi esalta. Facciamola, cioè, sentire, perché ne ho bisogno. Poi no, è normale che questo avvenga, però a me non me l'ha mai detto nessuno. Neanche a me. Neanche a te. Mai. Cioè nessuno ti ha mai chiamato dicendo no. Love of My Life. A stronzo. Dammi, sentiamo Love of My sentire, Life. Prego, io poi prego. È l'unica che mi piace, il resto quando entrano, a me mi fa impazzire un quotidiano come Repubblica, perché intorno a queste intercettazioni, che è vero, fanno parte di un processo, poi ci costruisce oltre al processo tutta una dinamica. Beh, quella però... diceva quell'altro, la signora Dana diceva questo, e allora se ha detto questo in quell'intercettazione, anche in quell'altra intercettazione quell'altra diceva quella cosa, e allora hanno scopato due o tre volte, forse lì hanno toccato solamente alcune parti, ma è tutto così, è una follia totale. Dopodiché a me mi interessa solamente Love of My Life, ti assicuro che mi interessa solo quello. Io voglio metterla sul telefonino, Love of My Life. Pronto? Love of My Life. Allora, ciao amore, bene, tutto bene? Sì, facciamo una cena qua dopo tanto tempo. Sì, che bello. Amore, posso portare una mia amica? Certo. Carinissima, bellissima, certo. Alla seconda laurea, guarda, è giustissima. Benissimo, benissimo. Va bene? Grazie. A stasera, un bacino, ciao, ciao amore, ciao. La cosa più straordinaria di questa intercettazione, secondo me, è... Ma cos'è la seconda laurea? Prima la seconda laurea, su cui naturalmente no, si può disquisire, no, a lungo. Dire, perché la prima laurea, ma la seconda laurea, no, intuitivamente, secondo lei, qual è la seconda molti laurea? Molti hanno detto che la seconda laurea in realtà non è una vera e propria laurea, ma è tutto... Ma c'è tutto, che poi c'è anche questa discussione, in realtà parlavano... È una metafora per no, dire... parlavano in codice. In codice. Però la cosa più bella è la voce stanca di Berlusconi. Non so se hai sentito, distrutto, no? Cioè io me lo immagino poggiato così, la voce stanca che organizza una serata, una cosa. Sì, io mi rifiuto di credere che però uno poi arriva alla serata e se ne fa 3-4. Questo non lo so, può darsi che sia successo. Ci vabbè, Antonio, allora fanno... qual è? La farmacopea fa miracoli. Antonio, allora? Pronto? Sì, sì. Qua abbiamo un esperto fra poco anche di queste tra cose. Poco lo presentiamo. Anche di pilloline, pronto? Sì. Ma di pilloline e martingegni e cose. Cruciani? Sì! Non la considera quindi un'offesa all'intelligenza degli italiani questa? Cosa? Ma cosa? No, ma che offesa? Ma cosa? Ma che offesa, su? No, guardi, io sono un lettore di Repubblica, me la sono scordata sul treno stasera e non me ne frega nulla, perché tanto poi quelle 3-4 pagine dedicate a queste cazzate, scusate, cioè basta. Non sono più 3-4 pagine, è tutto su internet e basta, non c'è più niente da altre parti. Ci ha stancato però anche la Repubblica. Vabbè, Antonio, ma va benissimo, infatti dedicano meno spazio, come normale che sia. E con noi Silvio Viale, buonasera. Grande Viale. Buonasera a tutti. Silvio Viale, consigliere comunale a Torino. Radicale. Da lotta continua al Partito Radicale. Difetti da tutti. Tutti, non mi sono fatto mancare niente. Qualcuno la chiama addirittura il dottor Morte. Sì, è una cosa un po' esagerata. Le piace? Le dà fastidio? No, non gli frega niente. Ieri mattina c'era una manifestazione contro di me con cartelli eccetera davanti all'ospedale. E il Movimento per la Vita. Pannella, lei che dice di Viale? Lo conosce Viale? Lo conosce Viale Pannella o no? Ero pronto a fare boss, adesso devo cambiare un attimo. Noi radicali, liberali, liberisti, libertari, abbiamo fatto l'aborto, il divorzio, l'obiezione di coscienza, Viale, la pillola del giorno prima e del giorno dopo anche. Vabbè, Viale è super radicale. È più radicale lei o Pannella, Viale? Ah, questo è buono. Beh, lei è più vecchio, quindi è più radicale, è sicuramente. Più radicale. Lei si considera più radicale di Pannella, radicale dentro più di Pannella o no? Ma diciamo che sono radicato dopo e sono radicale dopo, quindi... Ma quanti aborti ha fatto? Nella sua vita, lei è ginecologo, quanti aborti ha fatto nella sua vita? Anzi, espulsioni le chiama lei. Perché le chiama espulsione? Non mi sia timido, No, adesso Parenzo gioca un po' in casa perché abbiamo discusso altre volte. tutti sanno, sono le tecniche mediche, tecniche chirurgiche. Io lavoro in un ospedale che ne fa quasi 4.000 ogni anno, senza contare gli aborti spontanei, eccetera. Sono 20 anni che lavoro in tanti ospedali, non ne faccio moltissimi, però le migliaia siamo arrivati, sì. Le migliaia, ma tutti quelli che facevano aborti non è mai venuto adesso, perché tutti quelli che facevano aborti, cioè, siamo migliaia di aborti, perché la maggior parte dei colleghi fanno obiezione di coscienza, ma non per motivi religiosi. Quindi lei fa migliaia di aborti, ha fatto migliaia di aborti nella sua carriera. Migliaia di aborti. Quando ieri Milizia Cristi diceva che era un genocidio e mi accusava eccetera, dal suo punto di vista ha sicuramente ragione. Mi considero un genocida? No, io non mi considero, loro, però tecnicamente, è così. Questa è una materia in cui dico sempre bisogna parlarne quando si ha un test di gravidanza in mano, sennò, cioè? Così in libero, quando uno ha un test di gravidanza in mano, sì, decide cosa fare. A quel punto cambia il mondo. Certo. Ho visto gente anche conosciuta che di fronte a una gravidanza non voluta, tutto quello che pensava fino al giorno prima è cambiato. Cambia per esempio tutto. Una persona anche molto conosciuta, non si può dire. Segreto professionale da tomba. Allora, però lei ha fatto migliaia di aborti, possiamo dire così. Ho fatto anche, diciamo, centinaia, vuol dire migliaia, ma se vedi parti, faccio il ginecologo davvero, insomma, lavoro in tutte le... Poi oggi ci si è molto più specializzati, essendo questo un settore in cui i miei colleghi tendono a fuggire, quelli che ci rimaniamo alla fine rischiamo di esserci invischiati a tempo pieno. Non si è mai pentito di farlo. No, guardi, io ogni giorno vedo 30-40 donne che vengono per aborti, consigli, eccetera, e cosa ci sono dice tutta lei? La società. E sono donne che vengono in cui... che non, in una condizione che è quella che non avrebbero avuto il giorno prima o il giorno dopo. Il problema c'è, quando c'è, non il problema mai risolvono. Dato il consiglio continua, prova, provaci. No, mai dato un consiglio, diciamo, di non abortire? No, un sacco di gente non abortisce. Cioè, ma lei che dice quando una viene, ci sono un po' indecisa, lei che dice? Noi appena c'è un dubbio diciamo subito ci pensi, c'è appuntamento, rinviamo, mai saltato addosso a nessuno. Cioè, la prima cosa, io dico subito, il 90% delle donne che ho di fronte ho sempre simpatia. Un 10%, te credo, uso un termine, no, un 10% invece diciamo che decisamente non condivido, mi ispirano anche altri sentimenti di antipatia, ma per come si presentano, per superficialità, per come le questioni con l'arroganza con cui molte volte il proprio problema diventa quello che bisogna affrontare. Professionalmente non lo faccio capire, di solito simpatia per le donne, però è chiaro che qui c'è un problema e quando c'è il problema... la donna, la famiglia, la società, chi c'è dietro vuole risolvere il problema ed è disposta a fare qualunque cosa. Elenca le cose che ha fatto nella sua vita. Perché la gravidanza può essere un problema, no? Garantire le migliori condizioni per risolvere il problema. Cioè lei dice la gravidanza può essere un problema. La gravidanza può essere un problema. Lo è per tantissime persone. Certo. Cioè, quando vado in un'assemblea di solito con i genitori dico, beh, pensate dalla casa stasera che vostra figlia vi dica sono incinta. Lo capisci subito dalla faccia dei presenti cosa pensano. La maggior parte sono terrorizzati. Beh, a 15-16 anni quasi mai un genitore pensa che il fidanzatino sia quello che vorrebbe per tutta la vita. Certo. Penso allora, che questo sia una cosa capitata Luciana, a tutti noi quando avevamo quell'età. E poi Luciana da Padova, intanto fai l'elenco delle cose. Aborto, spinello libero, crocifisso vietato, nozze gay. Altro ancora? Eutanasia. Anche eutanasia, scusi, avevo dimenticato. Non ci facciamo mancare nulla, guardate. Scusi, lei ma io sono d'accordo con Viale. Io sono per la libertà dell'individuo. Ma io sono d'accordo con Viale. Dei paletti ci saranno sempre, bisogna porli. Ma è giusto, ci sono i paletti, ma i paletti devono dare la possibilità quindi, di esprimere le proprie... Sia l'aborto, sia lo spinello, guardi, io... nozze gay... Dolce morte, io, ovviamente. Guardi, io vedo tante forze politiche strumentalmente agitare questi argomenti quando non c'è nessuno coinvolto, che dopo si fa diversamente. Ma nel programma elettorale degli ultimi 20 anni, qualcuno che mi ha detto se vinco tolgo la legge sull'aborto e quella sul divorzio, non li ho ancora visti. Luciana da Padova, buonasera. E non li vedrò, Luciana da Padova. Parlare? Sì, vada. Posso parlare? Sì. Allora? Io chiamavo, beh va bene, adesso ho sentito altre cose, quindi mi sono venute in mente anche altre cose, però avevo chiamato per Grillo. Pronto? Sì, sì, vada, Luciana, può dire quello che vuole, può dire su Grillo, allora, può parlare di se stessa, di cosa cucina stasera. Se no, cucina. Di me? Sì. Ma stai parlando con me o con chi? E con chi? No, con lei, signora, con lei, sto parlando con lei, pensavo che mi volesse anche dire cosa cucinava stasera. Sto facendo da mangiare, sto facendo una zuppa di cannellini. Cannellini, cosa sono i cannellini, scusi? Cannellini, i fagioli toscani, quelli con l'occhietto. I fagioli. Ah, i fagioli. E poi il secondo non lo mangio. È talmente fitta. Mangio. è talmente fitta che no, le rimane il coltello in piedi. Ascolta, però sì. Io chiamavo per dire che sì. Di Grillo, oggi su TGcom hanno fatto vedere una, sì. un servizio, no? Anzi, sì. l'avevano già fatto, rifatto. Diversi servizi, sì, allora? Un servizio su Grillo al mare che nuotava in una spiaggia, sì, hanno allora, detto allora. Costa Smeralda, spiaggia di lusso, lui che dice che sì. a tutti a casa, basta le macchine blu, non era né una spiaggia di lusso, non sì. era il Pevero come hanno detto, ma era bensì una spiaggia in Sardegna, io la conosco sì. perché l'ho riconosciuta dagli ombrelloni dove c'erano le scritte. E c'era un bagno, per, bagno. Noi, per noi non è un problema il fatto che Grillo frequenti pubblica. Spiagge di lusso che vale sulle appunto, che vale è una spiaggia barche. Pubblica quindi Grillo va allora, nelle spiagge problema? Pubbliche ecco non sì. di lusso come hanno detto hai capito va bene, ecco, va bene. Abbiamo accertato che Grillo per come la vede lei va sì. nelle spiagge pubbliche no, e non frequenta io. Le spiagge di lusso per come c'ero io c'ero dopo volevo guardi, dire una non cosa. È importante, non è fondamentale questa cosa qua dove vai in spiaggia a Beppe Grillo. Però l'hanno puntualizzato. Ascolta, poi volevo sì, dire una cosa. Chi lo fa è Monti. Un cretino. Allora vabbè, Monti prima un radioascoltatore ha detto che Monti per via della responsabilità di queste morti anche oggi sì, c'è sì. stata. Allora, Monti non è che ha la responsabilità diretta, però diciamo sì. che si è concentrato molto perché questo avvenga. Vabbè, anche lei è una di quelle che dice che Monti ha le sue responsabilità nei suicidi. Mi dispiace, puttanata anche questa. Oh, Bozza, ha fatto arrabbia Cruciani. Eccoci qui. Sempre a Torino, 800 24 00 24, la Zanzara, buonasera ancora, siamo per non abbiamo ancora finito, so l'ultimo che, tour, l'ultima so che tappa, cosa, l'ultima so che è una tappa, cosa un po' lunga, ma siamo qui a combattere e mandiamo Sabina Began di ieri, perché sta facendo discutere Sabina Began la di ieri regina. Alla Zanzara quando dice che ha baciato i piedi, lei ha mai baciato i piedi di qualcuno, è feticista dei piedi, di qualcuno Viale? O di qualcuna? Mai? No. Non se l'è mai fatti baciare? No. In zona ci sono arrivato, ma non ricordo bene in che contesto. In che senso? Che zona? Cosa devo dire? Zona? No, arrivando alla zona dei piedi, quando due corpi si girano, si muovono, sì. fanno, penso che anche voi sapete cosa intendo. No, ci spieghi cioè, bene, perché no, noi no, abbiamo capita, delle lacune. Capita, non è che si sta cioè, sempre. Non ho capito. Non è che si sta sempre nella posizione da missionario, no, ci si rigira, si fa, eccetera. Ma è capita, la radio del sole 24 ore. Vabbè, no, capito. Vabbè, però, non capito. Noi le abbiamo chiesto se lei ha mai baciato dei piedi. Non baciato il piede nel senso di soffermarmi sul piede, che mi ricordo. No, non no. lo posso escludere. Però si è perso qualcosa, secondo me, lo sai. Cioè. La memoria, questo sì. No, si è perso qualcosa, perché è sempre un... Probabilmente sì. Poi lei che è così. E neanche dire? Non mi sono fatti baciare, questo forse è più... Questo è più grave. Stiamo parlando no, con Silvio Viale, più. Grande radicale. Mi incuriosisce di più il fatto di farmi morto. Baciare, piuttosto che baciarli. Non so perché, ma così. La incuriosisce di più. Sì, forse perché l'essere passivo è una cosa che... Molte volte stimola la fantasia. Le piace più. Essere passivo, Diciamo che in certi contesti piace, sì. In certi contesti, Devo dire che, ma vedo che piace a tutti. Sì, poi... Lei si è mai fatto frustare, per esempio? Sì. No, ma sul sado, no. Le grandi sono già in politica, sado, quindi una cosa per volta. Silvio Viale, storico, radicale, consigliere comunale a Torino, eletto con i radicali col PD. Con Fassino, col PD. No, con Fassino, va bene, d'accordo. Condivide Fassino tutte le sue idee. 40 anni fa urlavo qui a Torino Fassino lungo e cretino e corteo ad un lato. No, com'è che urlava, lo ripeto proprio oggi. Non so che quando passava Fassino, che era molto alto, molto più mago di adesso. Lei che era in lotta continua all'epoca. Eravamo così un po' più battaglieri, dicevamo Fassino lungo e cretino. Perché quando vedo sarà oggi... contento oggi che no, sindaco, però, che lei lo ricorda così. Quando oggi vedo i centri sociali che usano altri slogan un po' più volgari. Poi Fassino un giorno, guardi, abbiamo fatto con Fassino. Ma gliel'ha ricordato a Fassino la campagna. Hai detto il giorno che è stato eletto, gliel'ha mai cantato così, giusto per ricordarglielo un po'. Diciamo che la campagna elettorale sul divorzio, io rappresentavo la sinistra studentesca e lui della FGC, e un giorno mi guardò e mi fa: Viale, guarda, 5 anni sarà nel PC. Ne sono passati 40, ci siamo ritrovati, ma in altri contesti. Per cui, comunque, bellissima, è Fassino è uno che si presta anche, non sembra, ma si presta allo scherzo, eccetera. Bah, è antipatico e ha un caratteraccio. È antipatico. Per me antipatico. Non sono due difetti, nel senso che è molto, in politica è molto antipatico. Litiga, si incazza e questo fa piacere. Altre cioè, canzoncine. Vuol dire che si impegna ed è un gran lavoratore, come sono i piemontesi. Senta, ma altre canzoncine un po' così dell'epoca. Altre canzoncine un po' all'epoca che cantava, all'epoca di Lotta Continua? Ma guardi, ogni tanto viene in mente Figli dell'Officina quando come vedo faceva Figli dell'Officina? Come sentiamo. Faceva? Sentiamo. Io sono stonatissimo. No, ma prego. Ah, Figli de... no, non posso ricordare. Sì, stasera non torno a casa, mia moglie deve fare. Prego, prego. No, no. Viale, Figli dell'Officina, Figli della buona terra, già l'ora s'avvicina della più giusta guerra, la guerra proletaria, guerra senza frontiere, innalzeremo al vento. E qui c'è le tre versioni: le libere bandiere, poi c'è le rosse bandiere o le bandiere rosse e nere, le bandiere rosse e nere, che non era il Milan ma erano gli anarchici, che certo. Poi le belle, belle delle canzoni, Silvio Viale, Silvio Viale, ma... già Lotta Continua oggi radicale, questo è una bella canzone contro la polizia dell'epoca, sì, una di quelle sì, cose sì, belle, sì, che si cantavano con Lotta Continua. Allora lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. Siamo al top, siamo al top. Radio 24, l'abbiamo siamo fatto al top. Alla radio della Confindustria, intanto, amici imprenditori. Cioè, intanto Vittorio Feltri scrive: il PDL esca dalla maggioranza, perché anche su Twitter, signor Feltri, esca dalla maggioranza e faccia cadere il governo degli esattori, altrimenti azzererà i propri voti. Se io ho una mia teoria, secondo me il PDL non perde voti per la questione dell'appoggio al governo Monti, ma perde voti per i disastri degli ultimi anni. La questione dell'appoggio a Monti non c'entra nulla. Purtroppo sono voti congelati. Bravo Cruciani. Sono voti congelati. Una cosa intelligente l'ha detto, bravo, giusto. Beh, io dico spesso cose intelligenti. Questa è Nello da Salerno, Nello. Chi è Nello? Dico anche un po' di stronzate, però. Pronto. Non ho vie di mezzo, diciamo. Pronto. Non dico cose ragionevoli, dico cose intelligenti oppure stronzate. Nello, dica. Pronto. Volevo dire sì, a lei, il signor Cruciani, il signor Parente. Castalerno, sai come diciamo? Siete di figli e droccia, tutti e due, siete di figli e droccia. Grazie. Traduca, innanzitutto dalla platea voglio sapere, siete con Grillo, chi è con Grillo, da di sfida Grillo napolitano? I grandi sondaggi della Zanzara. I grandi sondaggi del sottoscritto della Zanzara. Allora, siete, chi è con Grillo, alzi la mano, chi è con Grillo? Chi è con Grillo, alzi la mano, molto pochi, non siete rappresentativi secondo me. Chi è con Napolitano, chi è con Napolitano e contro Grillo? Più o meno pari, più o meno uguali. C'è qualcuno che non ha avuto il coraggio, c'è chi non è, con nessuno dei due? Con nessuno dei due? Chi se ne fotte la maggioranza? Chi se ne fotte la maggioranza? Lei con chi è, Viale? Con Grillo o con Napolitano? Guardi, io sono un passo davanti Monti e quindi necessariamente con Napolitano in questo contesto. Ma perché credo che questo è un paese in cui tutti si tirano fuori sempre, sì. E c'è sempre qualcun altro che è responsabile di qualcosa, c'è qualcuno che sta facendo quello che ma prima bisogna fare. C'è uno napolitano che ha detto a una domanda precisa di un intervistatore: il boom, io conosco lì, solo il boom, e lì ha sbagliato. Oh, stava scherzando. Io Grillo continuo a considerarlo una specie di giullare di regime, facendo radicale, giullare di regime addirittura, sì, è quello che può permettersi di dire tutto il contrario di tutti, ha le pagine da tutte le parti e nessuno gli chiede mai, mai potrà, perché lui non si candida, sì. Se chiami Grillini i 5 Stelle si incavolano, non avrà mai e non assumerà mai una responsabilità, tanto è vero che ne spara anche di grosse e poi e chi si estrae dalla lotta, no, lei dice... si estrae, lui dà un palcoscenico a incazzati. E lui però in questo si estrae paese incazzati sono sempre stati, sì. Chi votava comunista, chi votava radicale, Viale. A volte qua. Abbiamo un 10-15% che in questo paese ha sempre fatto l'incazzato. Poi lui rappresenta quelli e oggi è un buon successo, il problema è che un paese deve essere governato. E lui non è capace di governare. Senta, lei sa cos'è la sodomia? Presente la sodomia, non so perché me lo chieda, so già che vuole arrivare da qualche altra parte. Esistono i sodomiti, secondo alcuni esistono i sodomiti, secondo c'è cioè una corrente di pensiero piuttosto minoritaria. Ci sono alcuni personaggi che io considero agghiaccianti. Sì, che lui considera agghiaccianti, che parlano sempre di sodomiti, i sodomiti. Mi prende in contropiede, quindi sto zitto, non rispondo. Non rispondo. Sì. Nel senso che sulla sodomia, sì, ma sodomiti... Ruggero? So di fallare. Il Ruggero è il 4, non è che si parla solo Ruggero di sodomiti, siete voi che in realtà ci avete la fissa, quindi. Perché abbiamo allora, la fissa? Allora spieghiamo a chi ci ascolta che Maurizio Ruggero è il fondatore di un'associazione che io parento. David Parenzo è niente meno che un giornalista che fa finta di essere serio. Pensate un po'. Quindi. Vabbè, questo non c'è. Lei è il fondatore di un movimento che si chiama Sacrum Imperium, ed è un cattolico tradizionale. No, ma io ed è un cattolico tradizionalista lefreviano, diciamo, no? Diremmo, no? Secondo me è omosessuale. Diciamo che è tradizionalista, che è più importante. Secondo me è omosessuale. No, no, dire così. Sì, secondo me è omosessuale. Ma non lo so, io francamente non capisco come mi debba difendere da eterosessuale accanito da accuso di questo tipo. Se devo, è proprio diciamo, la fissa voi. Che vuol dire eterosessuale? Scusi, Ruggero, ma che cosa vuol dire eterosessuale accanito? Perché uno dice sono eterosessuale. Però accanito, che vuol dire accanito? Vuol dire che quando uno è accanito tentamenti sodomiti come evidentemente qualcun altro forse ha, io non le ho avute per cui come sono in pace con la mia coscienza a differenza di altri. Lei conosce professor devo dire che anche lui nel bagno ma durante dico... la defecazione un po' di godere ce l'ha insomma. No, tu no, nel bagno sta contento diciamo che parliamoci chiaro e tondo, nel bagno quando sei lì con giornale eccetera ascoltando magari la Zanzara, se ti viene bene sei contento insomma. Ma che vuol dire cosa vuol dire è lo sfintere che si apre, no! Che si muove è quello, no! Diciamocelo, questo mi ha preso in contropiede con questa dichiarazione. Un medico un po' così d'assalto mi permetto anche di spieghiamo ai nostri editori che lei è un no spiega veramente per caso di passare. No, lei è un problema, medico. Adesso sì. Lasciamo perdere. Si crea dei problemi. È una questione di terminazione nervosa, di reazione, di movimento. Tecnicamente. Sto dando dei... Cioè quando si va al cesso si gode come matti, questa è la realtà, si gode. Alcuni godono come matti, alcuni tengono e sono stitici e non ce la fanno e vorrebbero godere, questo è il però discorso. Però questo che attinenza ha con l'omosessualità, scusi Viale? Beh, perché l'area anatomica e i meccanismi sono sostanzialmente cugini. Diciamo siamo tutti un po' omosessuali, lei dice. No, omosessuali no, diciamo che c'è un po' il piacere legato a certe sensazioni. Beh, ci sono comunque, anche nei rapporti etero. Ripetiamo ci sono che lei queste è sensazioni. Un medico, ripetiamo che lei è medico. Sì, lei è un medico. Ripetiamolo per le alte sfere. Viale è un medico. A parlare non ho quasi nessun tabù a parlare. Nella pratica poi Ruggero ha capito cose, anche lei è un po' omosessuale secondo la teoria di Ruggero abbastanza. Viale sì, devo dire francamente che cioè, se quando prima Parenzo diceva Viale è un medico voleva sostenere forse quello che è il degrado della nuova classe medica, effettivamente condivido con lui. Ma, nel senso diciamo che effettivamente se questo è il livello della classe medica siamo messi un po' malotto d'altra parte. Per un eterologo, un eterosessuale accanito, un ginecologo deve essere la patente migliore per sapere come quale è la sua vita. Però scusi Ruggero, lei non ha sentito, però per un eterosessuale accanito un ginecologo deve essere il mito, deve essere un mito assoluto. C'ha ragione. 2-0 per il professor Viale. Va bene Ruggero, un attimo solo perché ho il traffico. 20:46, torniamo tra un attimo per il gran finale della Zanzara qui da Torino. Eccoci qui, 800 24 00 24. Mamma mia, che la puntata, Zanzara. Che puntata. Allora, Ruggero, Viale è esattamente all'opposto di quello che lei può, per fortuna, può immaginare di essere. Per insomma, fortuna. Cioè, è d'accordo su tutte le cose, a favore di tutte le cose che lei... Che lei... Sono d'accordo con Parenzo, cioè per fortuna, sono d'accordo. Dove sta al cesso, scusi? Dov'è al cesso? Giusto appunto al cesso, si è rifugiato al cesso per provare per la prima volta subito questa... Ha seguito i consigli del signor Viale, signor Ruggero! Questa sottile sensazione che si può provare al cesso, no? Adesso da questo momento in poi tutti gli ascoltatori della Zanzara, naturalmente quando andranno al bagno, insomma, diranno, però, magari mi sentirò anche un po'... Chiedo scusa, signor Ruggero, ripetiamo che Silvio Viale è un medico ginecologo affermatissimo, sì, uno scienziato voglio ripetere per i nostri scusi però editori. Lei quante persone ha aiutato a morire, questa è una cosa seria, quante persone ha aiutato a morire? In Italia è vietato, quindi non assolutamente no, le ha portate all'estero assolutamente no, diciamo che non ho difficoltà a dire che come associazione abbiamo rapporti con Dignitas, Exit con Dignitas, con Exit olandese, con le associazioni olandesi, belghe e lussemburghesi che io conosco i medici, parlo con loro, conosco loro, io fossi un medico olandese, in Svizzera farei quello, cioè, se farete... l'Italia mi fosse permesso aiuterei le persone a morire. sempre nell'ambito di malattie non curabili, protocolli, vabbè, certo, scelte Beh, no, è una paesi... scelta di minoranza, diciamo, di persone molto sensibili che pensano a quello, però io ritengo che sia un estremo diritto poter morire in pace, cioè, nel migliore dei modi. Bravo! Però ci sono alcuni paesi in cui uno può scegliere io, di morire. Io lo amo, aspetti Viale. Un attimo, io lo amo, Viale. Ci sono alcuni paesi in cui uno può scegliere di farlo anche in presenza magari non di, proprio di una malattia terminale, cioè la scelta, di una forte depressione. Diciamo che la vecchiaia estrema è comunque una malattia, questa balla che la vecchiaia non è una malattia, cioè scusi, non ho capito. Guarda, io, cioè uno che arriva, io che ho 55 anni al mattino cammino 5 minuti col piede dritto, poi fa invecchiando, no, ma no, dai, no, non sto dicendo morire lei, scusi, no, a 150 anni chiaramente. Appunto. Non puoi coglione ancora allora, però il problema è un altro, è che la gente a un certo punto ha concluso la propria vita e la lo percepisce e ha diritto di morire, ha fatto tutto, non farà più le cose che voleva fare, vede, sente un peso, lo sente per malattie, ma anche semplicemente perché si è arrivati a una limitazione che percepisce insopportabile, e se uno vuole morire anche senza, questa, lì, anche senza una malattia, beh, ha diritto di morire. Ci sono io non penso al suicidio in astratto, penso che in certe condizioni sia giusto poter aiutare le persone che morirebbero comunque, lo farebbero nel peggio dei modi, cioè, no, però io lo sto dicendo, la depressione per esempo può essere una, la depressione è la brutta bestia, brutta malattia. E dunque? Allora, in questo momento, in questo momento, vuole morire, viene da in questo momento i depressi che in Olanda, in Belgio e in Svizzera hanno il suicidio assistito e l'eutanasia sono una minima parte e cose molto gravi. Però, no, scusi. Persone che hanno tentato il suicidio di 90 anni, una persona di 90 anni, no? Il caso del grande Monicelli, no? Monicelli a un certo punto era malato e si è buttato giù dal... Se me lo chiede più volte, ne parliamo, è convinto, pensa che sia la cosa migliore per se stesso. Lei gli fa la puntura. Io, dal punto di vista tecnico, le do le migliori condizioni per farne i migliori modi. E se uno non è malato a 90 anni? Tipo, allora, no. A 90 anni sono malato, continuerà ad andare avanti. Ma se invece viene da lei e dice io voglio morire, uno di 90 anni che non è malato e dice io voglio morire perché comunque ormai sono vecchio, ho fatto tutto, lei cosa fa? Beh, uno che viene a dirmi questo è perché pensa di essere ormai alla fine malato. E quindi lei che fa? Quindi no, allora, io, come esattamente mi dice questa signora, vuole abortire o non abortire, non le dirò mai sì, dirò valutiamo assieme. Scusi, e vediamo. Però, mi devi dire la verità. Quante persone ha mandato lei in Olanda, in Svizzera, in paesi? Sì. Consigliare. Ho parlato con molte persone. Quante? Abbiamo informazioni. Ma no. 100, 200. Ma no, in Svizzera ogni anno gli italiani che si rivolgono alle tre associazioni svizzere, sono 200 stranieri, sanno una decina, non di più. Cioè, poi molti lo fanno come una sorta di assicurazione della vita. Ma lei lo farebbe proprio come me, cioè come professione? Certo, lei farebbe? Se no, non fare il medico. Fare il medico vuol dire fare le cose scomode che hai la possibilità di fare che altri non possono fare. Poi si tratta di vedere in che modo. Io dico sempre: guardate, questi sono argomenti. Ruggero, che dice lei? Ruggero, che dice lei? Ruggero dice che sin dal tempo dell'antichità c'era un tale, che si chiamava Ippocrate, che era medico forse un po' meglio anche di Viale, il quale fece un giuramento. Questo giuramento è sempre pro vita, non è pro morte, quindi evidentemente la funzione del medico deve essere quella di salvare, non deve essere quella di mandare al creatore. Di una bischiarata, che per certe persone sarebbe quasi bene farlo, il caso di Parenzo lo prova, però voglio dire, non si va così con nessuno, punto e basta. Ha finito in bagno intanto? Nel frattempo io sono mai andato in bagno, siete voi che siete nella toilette permanente. Quindi, il luogo della defecazione verbale di Radio 24, e non è colpa mia. No, scusi, questo è interessante. Io sono l'uomo della defecazione verbale. Sì. E quindi goduria proprio questa. In tutti e due siamo gli uomini della defecazione verbale. Una toilette radiofonica. Una toilette radiofonica. Questo qua potrebbe essere sfruttato da qualcuno, però è interessante. Donato da Ferrara. Buonasera. Donato, dobbiamo finire purtroppo. Mi ha sentito già la musichetta sotto. La musichetta sotto. Come sono dispiaciuto di non sentire. Tutto finito. Mi dica una stronzata alla fine, un'ultima stronzata. È facile, sa. Volevo dire che volevo che nominassero l'istruzione Grillo, se mai ci sia un governo che lui potrebbe essere nominato ministro, perché in un intervento recente alla radio, la televisione, non ricordo, ha detto i vecchi partiti si stanno disbandando, voce del verbo disbandare. Ah, vabbè, si commettono errori, ma chi se ne frega. Vabbè, no? Ha detto una bella stronzata, indubbiamente. Grazie a tutti voi, alla prossima. Ciao. Grazie a Silvio Diale di essere stato con noi. Ci sentiamo domani 18:30. Ci possiamo baciare se vuole lui. Ogni tanto dormiamo insieme. Ogni tanto dormiamo anche guardi insieme. Guardi qua. Guardi. Da dove sono venuto? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hey, hey. Pasa la paz.